Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Ormai siamo alla quarta puntata. Ben ritrovata Annarita. Buon pomeriggio a tutti. E allora, come sempre, partiamo dai nostri titoli. Fuori dall'Italia, le isole Canarie, caldo tutto l'anno, a 4 ore di volo. In Italia andiamo nelle Langhe e non solo per assaporare il vino. Sud a chilometro zero a Gran Michele in Sicilia dalla splendida piazza esagonale. Ancora sud a chilometro zero Martina Franca, il barocco e rococò nella Valle d'Itria. Allora cominciamo il nostro viaggio in tutti i sensi. Valeria, 7 paradisi a 4 ore di volo dall'Italia, o poco più. Sono le isole Canarie che io ho visitato più volte e che consiglio vivamente a tutti i nostri ascoltatori, a partire da te che non ci sei stata. No, non ci sono stata, anche perché ti devo dire la verità che un po' il fattore vento mi spaventa. Alle Canarie però il fattore vento è positivo perché fa caldissimo e non esiste l'inverno, perlomeno quello che intendiamo noi. A dicembre, ti faccio un esempio, ci sono 24 gradi, a gennaio e febbraio, che sono i mesi più freddi, ce ne sono 20. Meta dunque da consigliare a tutti, per tutte le età e anche per le prospettive che può offrire a chi invece vuole proprio trasferirsi a vivere lì, e gli italiani che ci sono e lo hanno fatto non sono pochi. Per questo ne ho parlato con Pierangelo Perazzi, che è autore del sito viverealecanarie.com. Canarie, pur essendo parte integrante a livello territoriale della Spagna, della penisola, rimangono isole con un governo autonomo, di conseguenza abbiamo un regime fiscale che è favorevole, nel senso che quella che in Italia è per voi, non dico più per noi perché ringraziando Dio io ormai appartengo agli esodati da tempo, da 9 anni, però in quella che da voi è l'IVA, che è al 22%, qui in Canaria si chiama IGI, che è del 7%, e la tassazione, parliamo di un massimale del 20% sull'utile. Il turismo, possiamo dire, non conosce una stagionalità perché fa caldo praticamente tutto l'anno, e poi ci sono questi collegamenti charter con tutte le quattro isole principali: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura. Parlaci un po' anche delle differenze tra queste isole. Secondo te il turista che decide di andare alle Canarie, secondo quale criterio deve scegliere la sua isola? Allora, diciamo che le quattro isole sono realmente molto vicine ma tanto lontani per struttura, per economia, per territorialità, per tante cose. Normalmente noi di Vivere alle Canarie spingiamo il 90% quasi dei vacanzieri o di coloro che vogliono appartenere al settore esodati su Gran Canaria. Ma perché? Perché Gran Canaria, come seconda isola per grandezza e per popolazione, Gran Canaria è un'isola, in realtà un microcontinente, c'è tutto: la spiaggia tropicale, c'è il deserto, c'è la montagna, c'è il lago, c'è i pini silvestri, c'è la grande città, il paesino di pescatori, la piccola Monte Carlo che si chiama Meloneras, il paesino residenziale classico, il paesino di provincia italiano, ti completa in tutto e per tutto. Poi passiamo a Fuerteventura che è più una cartolina. Fuerteventura, spiagge immense bianche, zone naturali, il 70% dell'isola è dichiarata parco naturale, quindi vulcani. Un po' più per i giovani, bella. Pierangelo, un po' più per i giovani Fuerteventura, anche in termini di divertimento. Cioè, se tu dovessi consigliare un'isola delle Canarie ad un giovane che non ha una grandissima disponibilità economica, quale consiglieresti delle quattro? Andiamo per fascia d'età. Fino ai 18 anni Tenerife, perché Tenerife è discoteche, è una Ibiza in miniatura. Gran Canaria è dai 20 anni ai 45, ai 50. Lanzarote, di cui mi sono innamorata? Allora, Lanzarote per me a livello personale è un punto di domanda molto grande, ma perché? Perché Lanzarote è un'isola bellissima, io dico sempre che Lanzarote è Fuerteventura in giacca e cravatta, ma perché? Perché Lanzarote è più curata nei particolari, il giardinetto, la aiuola, il lido con tutti gli ombrelloni, solo che Lanzarote ha una percentuale di turismo altissimo tedesco. Questo rispecchia poi quello che è il sociale del posto, no? Un sociale abbastanza freddo. E poi ci sono le tre piccine, quelle piccole piccole, la Gomera, il Hierro e la Palma, che sono anche un po' difficili da raggiungere, quindi non c'è un turismo vero e proprio. Ma sai, io dico sempre in modo inappropriato che sono tre zolle di terra, ma perché? Perché considera che il Hierro come la Gomera sono isole che rispettivamente hanno qualcosa come 13-15 mila abitanti totali, e sai, quando la gente da casa ci chiama per prenotare delle vacanze fini a se stesse, vacanze, o delle vacanze di perlustrazione per un fine di trasferimento, quello che ne vince poi è che comunque tutti, indipendentemente dall'età, e che ci chiedono: ma ci sono delle strutture sanitarie, ci sono delle strutture che comunque ci completino o che ci diano la tranquillità di poter ricorrere a qualcuno se dovessimo avere un problema? E il problema di queste tre isole è che comunque sono molto limitate. Senti, voglio farti una domanda. 9 anni che sei lì, non so da quanto tempo tu hai messo su vivere alle Canarie.com, ma sono state più le persone che sono venute in vacanza e poi dalla vacanza, come dicevi tu, come perlustrazione, si sono poi trasferite, o quelle proprio che vengono in vacanza? Puoi fare un bilancio? Vivere alle Canarie.com è nato 5 anni fa. È nato con l'intenzione informativa, e nasce tutto come vacanza in realtà. E quello che però si è evoluto subito al primo anno è stato l'interesse al fine trasferimento, un pochino anche purtroppo, ahimè, per le condizioni sempre più difficili italiane. Io ti posso dire che negli ultimi 3 anni su 100 vacanze 95 almeno hanno il fine perlustrativo, 5 sono magari il vacanziere, che anche il vacanziere normale più che la settimana viene a svernare. Sono pensionati o sono giovani? Sono pensionati quelli che svernano? Beh, allora, è evidente che il turismo invernale è difficilmente giovanile, ma semplicemente perché in teoria si presume che il giovane d'inverno debba lavorare, dovrebbe, debba produrre, quanto no? Meno, certo. Esattamente. Questo è un po' un errore comune, no? La gente spesso mi dice: ma il turismo è vero che è prettamente di maggiore età? E dico sempre: non è così, perché se venite nel periodo estivo, Natale, Pasqua, il periodo classico di stagione alta di vacanza anche italiano, è evidente che trovate di tutto. È evidente che se si viene a novembre o a febbraio, la fascia maggiore è quella pensionata, o chi ha problemi di salute, perché ripeto, le Canarie hanno un clima così favorevole che anche alla salute dà tanto, dà veramente tanto. Pierangelo, ti faccio un'ultima domanda, perché mi sono incuriosita da sola quando sono stata a Tenerife. C'è anche il carnevale di Tenerife, no? Carnevale, Tenerife, raccontaci. In Canaria è il secondo carnevale al mondo, dopo Rio de Janeiro. In Canaria il carnevale dura un mese e credimi, è realmente è una cosa incredibile. Si vedono delle cose che normalmente noi vediamo solo in televisione. E tu considera che l'anno scorso sono stato con i miei bambini a vederlo. Ci siamo messi all'inizio dei carri, dove iniziava la sfilata dei carri. Erano le 10 di mattina. A mezzanotte eravamo ad aspettare ancora a vedere le partenze dei carri. Quindi possiamo consigliare a tutti, soprattutto anche alle famiglie, di venire quando c'è il carnevale? Assolutamente sì, anche perché una cosa, credo che sia importante questo dirlo, perché è una cosa, secondo me, e qui lo dico non come Pierangelo di Vivere alle Canarie, ma come Pierangelo padre di famiglia, non c'è delinquenza alle Canarie, quindi c'è una serenità nel fare la vacanza, nel portare i bambini, nell'uscire a mezzanotte, c'è una serenità che ci rende piacevole la vita, che sia per a lunga durata o che sia per la settimana vacanza. Valeria, come sai, io sono un po' collezionista di prezzi. Allora ti cito un po' di prezzi. Come io sono collezionista di ristoranti. Beh, che peraltro non sono assolutamente male alle Canarie. Per esempio, mangiare fuori alle Canarie, ecco, i ristoranti, mi interessa. In media si spendono 10 euro a persona. La benzina costa 1,08 euro. La birra costa 2 euro, ma il boccale è quello grande. La Coca-Cola 1,15 euro. Un pacchetto di sigarette 2,25 euro. Affitto dell'auto per una settimana in media 136 euro. Conviene, le Canarie convengono. Andiamo. Io sono pronta. Per me, se vuoi, c'ho già la valigia pronta, andiamo. E tu a chilometro zero dove mi porti? Adesso ti faccio ascoltare, ti porto in un altro posto caldo. Chilometro zero. Come ti dicevo, Anna, restiamo al caldo perché io ti porto in Puglia, ti porto a Martina Franca. Martina Franca è un comune di 50.000 abitanti, quindi non proprio piccolo, in provincia di Taranto, famosa per la sua architettura barocca e rococò, conosciuta anche per il festival musicale della Valle d'Itria. Allora, Anna, a dirti la verità, io non sono una grande appassionata di barocco, però devo ammettere che il centro di Martina Franca è uno spettacolo. Intanto c'è questo contrasto delle chiese, dei palazzi che si stagliano contro questo cielo che quasi sempre è azzurro, ed è un contrasto abbagliante. Per mio gusto personale, i palazzi e le chiese sono più belli fuori che dentro, ma questo sempre perché io non sono un'appassionata di barocco. Ogni anno in estate si svolge il Festival della Valle d'Itria, quest'anno siamo alla 41esima edizione, ci sono opere e concerti di altissimo livello, è l'occasione per assistere a spettacoli in contesti unici, perché molti di questi sono allestiti nei chiostri e nelle piazze. E poi, ovviamente, essendo lì, c'è la possibilità di esplorare una zona che non solo è ricca di cultura ma anche di natura, e che cosa te lo dico a fare? I ristoranti. Esatto, gustare una cucina che non ha bisogno di commenti, e quindi mi astengo. Bene Valeria, io accetto questo tuo suggerimento e visiterò la destinazione di questa settimana, però io ti avevo promesso di ritornare a parlare anche di chi viaggia con animali, e allora ecco fatto, ritroviamo i consigli del veterinario Flavio Morchi, direttore della comunicazione scientifica di Royal Canin. Bisogna tenere conto di dove si va per non incappare, se così si può dire, in piccoli problemi che poi si riveleranno al ritorno. Sono delle malattie parassitarie che hanno magari una maggior diffusione nelle zone rivierasche o nelle zone di campagna del nord, e naturalmente il medico veterinario saprà bene come indirizzare il proprietario per effettuare la profilassi, diciamo così, di rito o più precisa. Detto questo, a questo punto bisogna valutare clinicamente il cane o il gatto per vedere se è in grado di sopportare il viaggio. La macchina, l'auto è probabilmente il mezzo preferito, ebbene. Anche se il rapporto, diciamo, del cane e del gatto con la macchina non è sempre, soprattutto del gatto. Ma tutti e due l'inanimasse, bisogna mettersi di fronte ai nostri amici a quattro zampe considerandoli come se fossero delle persone anziane o dei bambini, quindi durante il viaggio bisogna osservare delle pause ogni un'ora e mezza, due, portarsi dietro acqua da bere, non farli mangiare almeno tre ore prima della partenza, e naturalmente non esagerare con le distanze, insomma, se si volesse andare proprio a su nel sud Italia con una partenza da Milano sono 10-12 ore di viaggio, insomma, bisogna mettersi nei panni di loro, nostri amici a quattro zampe, insomma è abbastanza pesante, ecco. Ovviamente non bisogna dimenticare anche di avere del cibo a portata di mano, provvigionarsi per tempo in modo da poterlo poi chiaramente offrire al proprio animale durante il viaggio, in quantità limitate, ma ovviamente se il viaggio comporta una permanenza in auto non superiore alle 2 ore, è chiaro che uno spuntino, se lo facciamo noi, lo fa anche il nostro amico a quattro zampe. E allora grazie anche per questi consigli, Anna, ci fermiamo per qualche istante e torniamo tra pochissimo. Se leggerai questa lettera vorrà dire che sei uscito, e se sei arrivato fin qui, forse hai voglia di andare un po' più lontano. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema, ma una storia speciale che somiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solo attraverso la radio. Non voglio entrare nei dettagli di quel periodo, ma posso dire che ci sono stati dei giorni molto brutti e dei giorni inaspettatamente stupendi. Audiogrammi. All'ingresso del tunnel non ho tenuto le braccia alzate come se stessi volando. Ho lasciato soltanto che il vento mi investisse il viso e ho cominciato a piangere e a sorridere contemporaneamente. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Ogni domenica alle 18 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Globetrotter 24. Ti mostro come si fa. Inclina il bicchiere ed esamina il vino alla luce. Osserva il colore e la limpidezza. Ora infilaci il naso. C'è della fragola. C'è una impercettibile nota di formaggio olandese alle noci. Quando beviamo? Ora. Stai masticando una gomma? No. Sputala. Anna, per questa meta non ho scelto una musica, ma ho scelto un film. Si tratta di Sideways, è un film uscito qualche anno fa che diciamo parla di delle vite personali dei personaggi, ma in sottofondo c'è questo viaggio in California tra i vigneti. E l'ho scelto perché? Perché questa volta, per il giro più lungo, ti porto nelle Langhe. E non solo per la nostra comune passione per il buon vino. Questa è comune, questa dire. Sì. Vabbè, anche per il buon cibo è comune, dobbiamo sì, dirlo. Ma anche per quello che le Langhe possono offrire agli occhi. Non è una zona che io conosco molto bene, allora mi sono fatta aiutare da due ospiti. L'anno scorso Langhe, Roero e Monferrato sono entrati nel patrimonio artistico e ambientale dell'umanità, quindi sono un sito UNESCO. Ho cercato Federico Scarzello, che è un assessore del comune di Barolo, è presidente dell'Enoteca di Barolo ed è produttore di vino e curatore del museo Why Me. Molti passi si sono fatti negli ultimi tempi. Ovviamente la notorietà del territorio di Langhe, Roero e Monferrato è cresciuto moltissimo. Ovviamente il riconoscimento UNESCO è stato uno di quei tasselli che hanno dato una grande visibilità. Certo, si può sempre fare di più, però devo dire che si è vista una crescita veramente esponenziale. Io, da che mi ricordo, il turismo è cresciuto molto e quindi di conseguenza il pubblico che vediamo nella nostra zona, quindi chi conosce il nostro territorio, è cresciuto decisamente. La nostra carta del biglietto da visita è sicuramente la bellezza del paesaggio e poi l'enogastronomia è ciò che ci ha fatto conoscere ed è il motivo per cui questo paesaggio si è disegnato in questo modo. Il nostro è un paesaggio che è stato disegnato dall'uomo. I vigneti sono stati piantati, non esistesse il vino, probabilmente vista l'impervietà delle nostre colline sarebbero stati abbandonati nel tempo. Invece questo vino di grande valore ha fatto sì che fossero mantenute e che oggi vengano coltivati come dei giardini. Diamo delle coordinate per chi viene nel vostro territorio e oltre al vino vuole andare un po' a capire qual è magari la storia o a scoprire degli elementi più curiosi. C'è questo museo che è un museo forse non proprio come gli altri. Il YMU, o Museo del Vino, è una struttura molto particolare perché si insedia all'interno del castello comunale Fallette di Barolo ed è un museo con una concezione, io direi moderna, poi probabilmente posso essere smentito. È un museo che si sviluppa sui cinque piani del castello e rappresenta un percorso all'interno del vino. Ovviamente è diverso da quello che uno si aspetta, non è un'esposizione di bottiglie polverose o di attrezzi da vigneto, ma è un percorso multimediale fatto di scenografie, di allestimenti, di audio e di video che vanno a raccontare quello che è il vino, gli elementi che lo compongono, come si è sviluppato il vino nella storia, come è arrivato dalle nostre parti e come nel nostro territorio si è evoluta la cultura del vino, perché è nato il Barolo, chi lo ha immaginato e chi lo ha portato avanti, quello che è il Barolo oggi, e quindi è un percorso molto particolare che può essere fruito, devo dire, da tutti, perché comunque è fatto di audio, video, scenografie, addirittura è un approccio interessante, curioso, divertente per i bambini, e questa è una cosa che ci ha stupito perché non ce l'aspettavamo, invece devo dire che è interessante vedere la faccia stupita dei bambini che hanno visto qualcosa di molto curioso e di divertente. I bambini hanno una lettura del vino decisamente diverse, quindi, però quelli che sono gli aspetti legati alla sua storia, legati agli elementi, per dire, c'è un piano intero che rappresenta gli elementi che compongono il vino o che lo caratterizzano, quindi il suolo, quindi la luce, quindi l'acqua, quindi questi sono aspetti che i bambini colgono e che li divertono molto. Assessore, se lei dovesse convincere un astemio a venire a visitare le vostre terre, come lo convincerebbe? Io dico sempre agli astemi, devo dire che ne conosco sempre meno per fortuna, ma io di mestiere, guardi, faccio il produttore di vino, per cui come la maggior parte dei miei concittadini, ma io dico sempre agli astemi che è una malattia non grave, assolutamente curabile, per cui noi ci mettiamo il nostro impegno e dovremmo riuscire a fargli capire quello che è il vino, che consumato naturalmente in modo ragionevole è un piacere della vita. La mia naturalmente era una battuta, una provocazione. Guardi, già solo tutto quello che è il turismo naturalistico dei nostri paesaggi legato alla bicicletta piuttosto che alle camminate, ai percorsi naturalistici, ci sono offerte di qualunque tipo. Poco alla volta anche noi ci stiamo organizzando su quelle che sono le nuove richieste dei turisti e quindi anche in questi settori si stanno realizzando delle mappe che aiutino a camminare sui nostri vigneti, si stanno realizzando dei percorsi ciclabili sempre più attrezzati e in sicurezza, per cui ci sono una serie di offerte che vanno incontro a qualunque tipo di interesse. Io devo dire che questa mattina sono partito da casa presto, oggi è una giornata di sole, ieri era una giornata un pochettino più nuvolosa e con avvisaglie di temporale. Io vi devo dire che pur essendo lì ed essendo abituato a vederlo tutti i giorni, vedere dall'alto le colline immerse in una mezza nebbia con il sole sopra è un'emozione che credo che ognuno possa cogliere, a prescindere se ama il vino o non lo ama, se ama la gastronomia o non la ama, ma oggettivamente è uno scorcio che è decisamente impressionante. Quanti giorni secondo lei come minimo servono per arrivare un po' a vedere un po' di tutto di queste zone? Sì, io direi che per carità nel weekend è possibile fare una visita e poi probabilmente per qualcuno che non viene da molto lontano è possibile programmarne un'altra a ragion veduta per andare ad approfondire alcuni aspetti, però un fine settimana, diciamo che 3 giorni possono essere un tempo ragionevole per cominciare ad assaporare qualcosa di quello che possiamo offrire. Ci vediamo nelle Langhe. Molto volentieri. Valeria, ma lo sai che io le Langhe non le conosco, ma sono un posto romantico? Sono anche un posto romantico e c'è anche una strada romantica delle Langhe che volendo si può fare in coppia, ma se non siete da soli ma avete bambini c'è anche il museo del giocattolo di Bra per far vedere ai vostri figli com'erano i giocattoli di una volta e se siete appassionati di volo è anche possibile fare delle gite in mongolfiera. Ma tutto questo non mi bastava, perché? Perché avendo io un bambino piccolo volevo capire se fosse possibile fargli proprio toccare con mano come sono fatte le vigne, quindi entrare in un'azienda agricola, e allora ho chiamato un produttore, Roberto Voerzio, che è titolare di un'azienda agricola, vigneti che la sua famiglia coltiva ormai da generazioni, e mi ha spiegato appunto che alcune aziende, tra cui la sua, sono aperte al pubblico, e allora gli ho chiesto di spiegarmi perché è utile e bello andare. Il motivo principale per venire da noi è molto semplice, venire a vedere come può funzionare un'azienda agricola nel 2015, dove si fa il massimo per fare un prodotto naturale, sia partendo dalla cantina che dal lavoro nei vigneti, si può vedere, si può toccare con mano. Il mondo nel 2015 è andato molto avanti, quindi si tende più a economizzare, a fare i costi, il conto dei costi, piuttosto che cercare di avere un lavoro più naturale, più qualitativo. E aumentando poi il prezzo del vino, è ovvio, perché costa di più. E quindi invece noi facciamo la strada al contrario e quindi cerchiamo di fare una viticoltura naturale, quindi vuol dire nessun pesticida, concimi chimici, diserbanti, facendo una viticoltura come quella che faceva mio nonno con i mezzi moderni, invece di usare il cavallo, il bue, quello che si usava quando eravamo nel 1960 o 70 o da lì andare indietro. Usiamo i mezzi moderni che sono trattori con l'aria condizionata, sedile pneumatico, la musica, tutto quello che si vuole, però le operazioni sono le stesse. Si tratta di un posto dove il passato e il futuro si sono incontrati. Assolutamente, noi siamo partiti dal passato, dalla tradizione, da quello che facevano mio padre e mio nonno. E mi ricordo tutto quel mondo là, che poi è cambiato tantissimo, nei mezzi è cambiato tantissimo, ma nel sistema, nel modo di lavorare il vigneto, non è che si possono fare delle invenzioni. Questo è uno spettacolo adatto a tutti. Le visite che prendiamo dal lunedì al venerdì, noi partiamo sempre dal vigneto, spieghiamo quello che fa la natura, il messaggio parte sempre da lì, sempre dal vigneto, le visite, dove si coltiva il nebbiolo, dove si coltiva il dolcetto, perché si coltiva il nebbiolo, che è dato dall'esposizione, dalla qualità del terreno, dove si coltiva il dolcetto, che è una storia differente. Sì. Ha visto modificarsi il turismo che è arrivato nelle vostre zone negli ultimi anni? Sì, in che modo? Ci sono tante presenze di asiatici, di brasiliani, sudamericani, sono aumentate molto il numero di presenze di americani, poi anche di nordici, tipo Svezia, Norvegia, Finlandia. Però quasi quasi dal suo discorso mi viene da pensare che sono più gli stranieri che arrivano che non gli italiani. Sì, decisamente. Gli italiani ci sono, però frequentano molto l'agriturismo e non sempre sono appassionati di vino, vengono a farsi il weekend. Valeria, ma che posti meravigliosi, ma il mio chilometro zero c'è questa settimana, vero? Spero di sì. Ti porto in Sicilia. Chilometro zero. Precisione, ti porto a Gran Michele, a 10 km da Caltagirone e a 65 km da Catania. Ha una struttura urbana molto particolare, infatti il centro storico, che è stato progettato dall'architetto Da Perla nel XVIII secolo, presenta una piazza esagonale al centro, da cui poi si dipartono una serie di strade a raggiera verso l'esterno. E in città ci sono molte cose interessanti da visitare, la chiesa madre di San Michele Arcangelo e Santa Caterina, che si trova proprio nella piazza principale, il palazzo comunale, che è vicino alla chiesa madre, e poi al centro di questa piazza, che è un po' il cuore di Gran Michele, c'è un bellissimo orologio solare di dimensioni imponenti e c'è un cartello fatto molto bene, quindi anche per i bambini è interessante, che illustra tutta la storia della piazza e le caratteristiche di questo orologio solare. Mio figlio è appassionato della Sicilia, ce lo devo portare. Assolutamente sì, però siamo ai saluti adesso. E sì, Anna, siamo arrivati alla fine, questa volta ce lo ricordiamo. Globetrotter 24, @radio24.it, se volete darci delle indicazioni, ma anche se volete riprenderci su qualcosa. E poi ringraziamenti, quello speciale in regia ad Andrea Roccabella, che con la solita pazienza ci accompagna in questi viaggi. Alla prossima puntata. Alla prossima.